Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti all'ottava puntata dedicata alla lettura del romanzo Ex Tenebris, un capitolo alla volta. Nella scorsa puntata abbiamo parlato della mappa di Nocturnia e di come nella prima trilogia essa sia stata disegnata per assecondare la trama, così come, come si stava sviluppando, mentre la sua versione ampliata, che appare nella seconda trilogia, sia nata come creazione libera, per poi immaginare solo dopo le vicende in essa ambientate e i popoli che vi vivevano. Oggi vorrei allontanarmi un po' da Notturnia e raccontarvi come e perché è nata la mia fascinazione per il genere fantasy. In realtà l'allontanamento dai miei romanzi è più teorico che pratico, perché di questa fascinazione ne si sono figli e ne sono permeati dalla prima all'ultima parola. Nei primi anni Ottanta, per chi ha la mia età è senz'altro più facile da ricordare, a livello di mezzi di informazione non c'era quasi nulla di quello che è disponibile oggi. Venire a conoscenza di tutto ciò che si discostava dal mainstream era frutto di una scoperta più o meno casuale o dal passaparola di un amico, così per la musica, per i libri e per i film. Il genere fantastico più diffuso all'epoca era la fantascienza, forse a causa della guerra fredda che si era trasformata negli anni 60 e 70 nella corsa allo spazio e nella conquista della Luna. Anche in ambienti seriosi come quelli della TV di Stato, l'unica che esistesse all'epoca, c'erano vari spazi che le venivano dedicati. Ricordo con piacere le produzioni televisive come Spazio 1999, UFO, Star Trek, o gli sceneggiati come A, come Andromeda, o film quali L'uomo che cadde sulla Terra, 2001 Odissea nello spazio, per poi arrivare, ma solo alla fine degli anni 70, all'apoteosi di Guerre Stellari. Insomma, la fantasia dei miei coetanei, e quindi la mia, era stimolata dalla fantascienza. Ma l'altra faccia del fantastico, cioè il fantasy? Nulla o quasi. Francamente non ricordo alcun film o serie televisiva degna di nota. Per quanto riguardava la letteratura, poi c'era una situazione paradossale. In Italia all'epoca tutto era politicizzato, anche quello che non avrebbe dovuto. In particolare qualcuno aveva deciso che Tolkien era di destra, o, come si diceva allora, era fascista. E non era uno scherzo, l'estrema destra se n'era appropriata, non si capisce bene perché, tanto da chiamare campi Hobbit alcune loro manifestazioni. Questo, in una classica dinamica italiana dell'epoca, aveva fatto diventare fascista tutta la fantasy, che peraltro, specie quella eroica di Conan il Cimino e dei suoi fratelli, ben si prestava al superomismo nicciano. Quando nei primi anni Ottanta un amico mi prestò l'Hobbit, lo lessi quasi di nascosto, con un grande senso di colpa, come avrei fatto con Il Capitale o Il Libretto Rosso di Mao. Insomma, sembrava un atto politico invece che una semplice curiosità giovanile. Quando compresi la totale stupidità dell'associare le atmosfere di Tolkien a qualsiasi movimento politico, di destra o sinistra che fosse, non mi accontentai di leggere il solo Hobbit. Ben presto mi feci conquistare le atmosfere dei romanzi fantasy, aiutata anche e soprattutto dalla meravigliosa fantacollana edita dalla Nord. Di fatto, le trovai molto più calde e attraenti di quelle fredde degli spazi siderali evocati dalla fantascienza classica, che stava però mutando pelle. Star Wars, tanto per fare un esempio, era molto più fantasy di, tanto per fare un esempio, 2001 Odissea nello spazio. Ma soprattutto veniva recuperato un senso dell'avventuroso e del meraviglioso tipico della produzione degli anni 50 e 60, che si è andata perdendo negli anni successivi. Ok, per oggi può bastare così. Possiamo passare alla lettura dell'ottavo capitolo del romanzo. Un ringraziamento e un saluto agli ascoltatori di Radio Big World. Capitolo 8. Tom e Diana rimasero per qualche minuto immobili, appoggiati alla parete rocciosa che si era di nuovo solidificata alle loro spalle. Dita di nebbia si aprivano e chiudevano lente di fronte a loro. Quando Tom si alzò in piedi, si accorse che Diana non riusciva a fare altrettanto, spossata dallo sforzo di usare il potere oscuro. Era lì, rannicchiata, le mani a proteggersi il ventre che aveva ripreso a farle male. L'uomo decise di dare un'occhiata in giro per controllare se c'erano ancora i massini di abissine intorno. Dopo aver perlustrato la sommità della Rocca delle Tenebre, senza aver mai ormai perso di vista Diana, tornò da lei. Anche se non c'erano pericoli immediati, non era un posto sicuro per loro. La nebbia li proteggeva dalla vista degli occhi umani, ma in quel mondo intriso di magia maligna non si poteva dire cosa ti stesse scrutando e come. «Dobbiamo muoverci da qui», disse Tom. La ragazza annuì debolmente e socchiuse appena gli occhi cerchiati. Lui le sorresse mentre si alzava e lasciò che lei si appoggiasse mentre si incamminavano lungo quello che somigliava a un antico sentiero. Cominciarono la faticosa discesa lungo le pendici della Rocca delle Tenebre, nella speranza che nessuno li scorgesse. A intervalli regolari, Tom si fermava per far riposare Diana e per lustrare i dintorni. All'inizio la direzione possibile era una sola, ma scendendo aveva notato qualche traccia di sentieri che portavano in direzioni diverse e il dubbio su dove andare lo aveva colto in più di un'occasione. Dopo qualche ora di marcia, giunsero in vista di quella che doveva essere una foresta, che si estendeva brumosa fino a ben oltre il loro limitato orizzonte. Tom fece di nuovo sdraiare Diana e si inoltrò nella boscaglia per un giro di ricognizione. Il suo stomaco gli diceva che era già passato da molto tempo il momento di mangiare qualcosa, quindi ignorò ogni legittima diffidenza e raccolse qualche magro frutto rinsecchito, e assaggiò con circospezione e attese qualche minuto prima di farne mangiare un po' a Diana. Sembravano commestibili, benché completamente insapori e dalla consistenza del sughero. «Dobbiamo attraversare questa foresta per arrivare alla fortezza», disse Tom, tirando fuori di tasca la mappa e mostrandola a Diana. «È chiamata Selva Atra». «Ci stiamo addentrando nel territorio dei necromanti?» chiese debolmente lei. Gli occhi febbricitanti scrutavano i nomi tracciati su una mappa, come se le fossero familiari. «Sì, supponendo che questo sia il nord», rispose ponendo l'indice dalla parte alta del disegno, «ci stiamo dirigendo verso nord-est». «Quanto ci metteremo?» chiese Diana. Ma la domanda che le si leggeva in volto era: quanto mi resta ancora? Non c'è indicazione delle distanze sulla mappa. Supponendo che la scala sia più o meno giusta e comparandola con la dimensione della rocca, direi che in qualche giorno dovremo farci ad attraversare la selva. Rimasero in silenzio. Diana si stese un po' e Tom le fece appoggiare la testa sulle ginocchia, accarezzando i capelli corvini con delicatezza. La ragazza sembrava spossata. Lo sforzo di farli uscire dal sepolcro di Cremen l'aveva consumata come una falena sulla fiamma. Il male che aveva dentro cresceva. Calarono le tenebre, dense e impenetrabili come non avevano mai viste. Il silenzio attorno a loro era palpabile. I pochi rumori di animali che avevano sentito durante il giorno, senza peraltro mai averne visto uno, erano spariti. Era come se gli esseri viventi, quei pochi che erano ancora rimasti in quel mondo agonizzante, si fossero rifugiati nei loro tane, terrorizzati da quella notte innaturale. Tom si rammaricò di non essere riuscito a trovare un rifugio, ma si trattenne dall'idea di accendere un fuoco. Nelle tenebre così fitte sarebbe stato un richiamo irresistibile per qualsiasi predatore notturno. Strinse a sé la spada di Grain e si apprestò a riposare con un occhio solo. Shaltul l'evocatore era immobile in piedi al centro di un pentacolo tracciato con il sangue. Il cerchio perfetto che passava per i vertici della stella a cinque punte lo proteggeva dagli esseri che evocava dagli abissi, come un muro impenetrabile che lui poteva alzare e abbassare a proprio piacimento. C'erano demoni che richiamava per ordinare loro una singola missione o assegnare un compito preciso. Per quelli il vincolo di obbedienza che pronunciava al momento della vocazione era sufficiente e garantiva che non si sarebbero ribellati. Poi c'erano demoni la cui vocazione era complessa, perché erano potenti e feroci. Per questi il vincolo doveva essere raddoppiato e anche così potevano liberarsi e trucidare il proprio evocatore. Aveva avuto dei allievi ridotti a brandelli dai demoni superiori, che infatti ormai richiamava, e con enorme dispendio di energie, solo lui. Infine c'erano demoni speciali, con caratteristiche rarissime e spesso uniche. Richiamarne uno degli abissi era come trovare un tesoro inestimabile, e liberarlo dal vincolo sarebbe stata una follia. Uno di questi era il cangiante. Tutti i suoi simili avevano due aspetti, uno nel loro mondo e l'altro che assumevano su notturnia, spesso orribile e spaventoso. I cangianti no. Loro potevano assumere qualsiasi aspetto avessero voluto, trasformarsi per apparire identici a qualunque essere vivente. Questo li rendeva inestimabili, anche ancorché rarissimi. Shaltul ne aveva evocato uno anni prima e rinnovava il vincolo con regolarità per impedire che potesse tornare al suo mondo. Questo gli costava ogni volta più energia, ma lui era il signore degli evocatori e riusciva a mantenere l'imperio sul demone. Pronunciò il rituale e si mise in attesa, le braccia incrociate. Dopo qualche istante una figura semitrasparente apparve di fronte a lui, appena fuori del pentacolo. Attesa ancora un po', mentre il demone prendeva consistenza, ma non forma. Il suo aspetto continuava a mutare lento, ma senza soluzione di continuità. Ora era un vecchio, ora una donna, ora un gufo, ora un lupo. «Ho una missione per te», disse Shaltul con voce ferma. «Sono stanco delle tue missioni, evocatore». La voce risuonò come un tuono. Da essa trasparivano furore e frustrazione. Il vincolo che rinnovi è sempre più debole e io berrò il tuo sangue prima o poi. Lasciami rituffare negli abissi e mi dimenticherò che mi hai reso schiavo così a lungo. Ti lascerò andare dopo quest'ultima missione, mentì Shaltul. Oltre a servire i demoni, era la cosa che ti riusciva meglio. Ma non mi minacciare. Mai. strinse un pugno e il cangiante urlò di dolore, mentre gli aspetti che assumeva cominciarono a vorticare velocissimi. Con calma l'evocatore allentò la stretta e infine aprì la mano. L'urlo si strozzò. «Farai questo per me?» chiese Mellì, flasciò al turco, con un ghigno dipinto sul volto. «Ordina e ti obbedirò», mormorò il demone, tentando di nascondere l'odio mortale che lo pervadeva. «Devi proteggere una persona alla quale tengo molto, ma lei non deve sapere chi sei e che ti ho inviato io». «Che forma devo assumere?» chiese il demone. Shaltul sorrise. Quando si svegliarono, la caligine grigiastra aveva di nuovo preso il posto della notte. Tom aveva la sensazione di essere più stanco di quando si era addormentato. Spero che almeno Diana avesse recuperato un po' di forza. Speranza che si dimostrò vana quando lo sfiorò la fronte. Non scottava più. Forse il suo corpo non aveva più energie neppure per quello. La ragazza era gelida come il marmo e le sue labbra erano violacee. Si alzarono e si misero in marcia con lentezza, addentrandosi all'interno della selva. Tom ebbe subito la sensazione di un abbraccio sgradito. Era come se le pallide ombre gettate dai rami contorti e spinosi tentassero di sfiorarli. Camminarono a lungo cercando di mantenere la stessa direzione, ma presto Tom dovette ammettere con se stesso che non avendo riferimenti era impossibile dire se stavano veramente procedendo in linea retta. Le gambe di Diana cedettero di schianto e Tom dovette afferrare al volo prima che cadesse a faccia avanti. La posò con delicatezza ai piedi di un gigantesco tronco color cenere e si guardò attorno. Si stava alzando una nebbia densa e schiumosa che danzava pallida attorno a loro, avvolgendoli in lente spire. E proprio in quel momento cominciò il canto. Sembrava la voce di un soprano, ma con un'estensione infinitamente maggiore. Oscillava sulle loro teste, volteggiava attorno a loro, li sfiorava soave e poi riferiva aguzza. Tom ne fu presto narcotizzato, come se il canto avesse un potere allucinogeno. Le sue gambe divennero molli e lui cadde in ginocchio. La sua testa era leggera e vuota, la sua mente serena. Sul viso di Diana, invece, un'espressione di dolore e angoscia. La pelle era tirata sugli zigomi, le occhiaie incavate tanto da sembrare orbite di un teschio. Si portò le mani sulle orecchie per tentare di bloccare gli effetti letali di quel suono melodioso. Da dietro un albero emerse una figura eterea. Aveva l'aspetto di una bellissima donna vestita di una tunica bianca, ma la sua consistenza era quella della nebbia della quale era circondata. Fluttuava un palmo da terra e ondeggiava come la superficie di un stagno. Il canto melodioso usciva dalla sua bocca e saturava l'aria. Il corpo di Diana fu scosso dalle convulsioni e il bricio di coscienza rimasto a Tom gli permise di capire che la ragazza stava morendo, la sua anima risucchiata via dalla voce umana di quel fantasma della selvatra. Cercò di alzarsi e brandire la spada per minacciare la visione, ma si sentiva come invischiato in un fango viscido e colloso e l'arma gli sfuggì di mano. Si accostò a Diana nel tentativo di proteggerlo con il suo corpo. Riuscì a malapena a sfiorare un braccio della ragazza, poi crollò a terra. Era finita. All'improvviso un proiettile infuocato partì dal folto degli alberi e trapassò l'essere, andandosi a conficcare nel tronco alle sue spalle. Il canto ora era un urlo disumano e stridente. La figura, che fino in quel momento ondeggiava lieve, cominciò a dimenarsi in maniera violenta. Un nuovo arco di fuoco blu partì dagli alberi e altre grida di dolore strazianti si aggiunsero alle precedenti. La donna eterea svanì tra la nebbia che la circondava e nella selva tornò a regnare il silenzio. Dopo qualche istante una donna apparve sul ramo di un albero a non più di una decina di metri da Tom e Diana. Rimase lì accovacciata e li fissò con un'espressione a metà strada tra il divertito e l'infastidito. Era abbigliata come un uomo, ma con una blusa verde marcio e un paio di pantaloni. Aveva un corto arco in mano e portava una spada fissata al fianco. «Tutto bene?» chiese con una bella voce attraversata da una sottile traccia di alterigia, mentre si sistemava i capelli color mogano legati in una lunga treccia. «Non lo so ancora», rispose Tom, ansimando. Alzò appena la testa senza allontanarsi da Diana e cercando la spada con lo sguardo. Una nemica di un loro nemico poteva essere un'alleata, ma era pur sempre uno sconosciuto. «Le tue frecce incendiarie ci hanno salvato la vita, a quanto pare. I Silvani hanno sempre qualche freccia impregnata dell'olio nero che galleggia nelle pozze ovest da qui». La donna si strinse nelle spalle, come significare che per lei erano cose di poco conto. «Le fatue temono il fuoco, come tutti gli esseri richiamati dai poteri dei necromanti». Tom annuì e non disse nulla. La sua attenzione era attratta dal volto cerio di Diana, nella quale riuscì a stento di percepire il respiro. «La ragazza ha bisogno di cura», osservò la donna. «Puoi portarci da qualcuno che ci possa aiutare?» chiese Tom. «No, non è possibile andare al mio popolo», rispose scattando in piedi e fissandolo con i suoi occhi verdi. I Silvani vivono troppo lontano da qui, e la ragazza non ce la farebbe. Vi aiuterò io. Grazie, si affrettò a dire Tom. Non so neppure come ti chiami, ma ci hai già salvato una volta. Se lo farai di nuovo, ti guadagnerai la mia eterna gratitudine. Il mio nome è Arla, rispose la donna brusca. Si slacciò la blusa e tirò fuori un sacchetto che teneva appeso al collo. L'aprì e mi tirò fuori un pezzo di muschio. Devi cercarne altro, disse Tom porgendoglielo. Non tornare finché non ne hai le mani piene. L'uomo annuì. La donna aveva modi poco piacevoli e un'espressione dura che rendeva i suoi bei tratti meno aggraziati. Ma l'importante era che avesse la possibilità di aiutarli. Si allontanò con lo sguardo rivolto a terra per scrutare le radici degli alberi e la ricerca del muschio. Ci volle più di un'ora perché riuscisse a recuperare la quantità necessaria. Si diresse di nuovo verso il posto dove aveva lasciato le due donne, con un po' una punta d'angoscia. Da quando era andato alla ricerca di acqua nelle visce della Rocca delle Tenebre, non aveva più abbandonato Diana per un periodo tanto lungo. L'ambiguo comportamento di Arla lo metteva a disagio. Non era facile considerarla un'alleata, nonostante li avesse salvati dall'essere che aveva chiamato Fatua. Si diresse di nuovo verso l'albero dove le aveva lasciate, ma avvicinandosi notò una strana luminosità. Non riusciva bene a vedere attraverso la nebbia che lo circondava. Sembrava che essa provenisse dalle mani di Arla posate sul ventre di Diana, che era ancora sdraiata a terra. Allungò il passo per raggiungerle, ma mentre si avvicinava il chiarore svanì e lui si chiese se per caso la stanchezza non gli avesse giocato un brutto scherzo. Ho raccolto questo, spero sia sufficiente, le disse porgendole il muschio. La donna lo prese con delicatezza e le poggiò sulla pancia di Diana, fino a ricoprirla per intero. Rimase immobile ad attendere per un lungo periodo, infine tolse il muschio. La ragazza sta già meglio, disse senza girarsi. Ha una fibra più forte di quanto pensassi. In effetti ora Diana aveva il viso più rilassato e le sue orecchie erano meno profonde. Addirittura la sua espressione sembrava quasi serena. Tom si calmò un po', ma non riusciva a tranquillizzarsi del tutto. Si domandava come l'applicazione di un po' di muschio, per quanto sicuramente le qualità curative, potesse far migliorare così velocemente le condizioni di Diana. La sua mente continuava a tornare alla luminosità che aveva intravisto tra le mani di Arla. Anche i bambini sanno che questa parte della selvatica è pericolosa, disse la donna con tono di rimprovero, interrompendo il filo dei suoi pensieri. Se poi si trasporta un malato, è un suicidio. Una fatua fiuta un moribondo a leghe di distanza. Perdona la nostra ignoranza. Purtroppo non ne sappiamo molto dei pericoli di questi luoghi e abbiamo molta premura di arrivare alla fortezza della solitudine. Questa sembrava essere la via più breve. Non dire sciocchezze, straniero, rispose brusca la donna. Nessuno sa di mente va alla fortezza della solitudine. Un nostro amico è prigioniero lì, disse Tom, senza addentrarsi nei particolari. Abbiamo bisogno del suo aiuto. Avete bisogno anche di un esercito, se volete liberare qualcuno dalla fortezza, lo schernì lei. Gli evocatori con le loro legioni di demoni non si sono riusciti. Tu speri di farlo assieme a una ragazza malata? Anche una sola fatua può fermarli, a quanto pare. Sono esseri a guardia della strada per la fortezza? Le fatue sono creature delle tenebre, transitate attraverso la breccia, disse pensierosa la donna, scuotendo la testa. Con la loro voce assorbono l'energia delle persone e ne traggono nutrimento. Ovviamente i malati e i moribondi sono le loro prede preferite, ma no, non direi che sono messe alla guardia di nulla. Ormai nella selva sono più frequenti di molti animali, come nel resto di notturne, credo. Vado a procurare il cibo, disse Arla, alzandosi e allontanandosi. Tu stai attenta alla ragazza, non ci dovrebbero essere altre fatue nella vicinanza. Sono creature territoriali, ma non si sa mai. Tornò dopo una mezz'ora con un animale di dimensioni dell'aspetto di una lepre, ma il pelo tutto rovinato e chiazzato. A Tom tornò in mente una vecchia foto di un animale sottoposto a massicce irradiazioni di uranio. Non fece commenti. Se lo immaginava, se lo mangiava la donna, ad avrebbe dovuto mangiare anche loro. Senza dire nulla, Arla accatastò qualche pezzetto di legna grigia. L'accese con una pietra focaglia che teneva nel sacchetto appeso al collo, prima che Tom si ricordasse di avere un accendino. Tirò fuori un coltello e con rapidi gesti incise la pelle della pelliccia dell'animale e lo scuoiò. Poi appuntì un bastone e lo infilò nel corpo della bestiola. Infine lo porse sul fuoco che prendeva vigore spargendosi sugli alberi scheletrici inquietanti bagliori violacei. «Come hai detto di chiamarti?» gli chiese mettendosi seduto a scrutare le fiamme. «Il mio nome è Tom», rispose un po' sulle sue. Non riusciva a essere tranquillo e la strana luminosità che aveva visto quando era tornato con un muschio continuava a venire in mente. Si ripeteva che a notturni non avevano amici, anche se un'alleata come Arla poteva fare loro molto comodo. «Bene, Tom», disse lei con un sorriso ridente, che però non le giungeva fino agli occhi. «Di un po', da dove spuntate fuori? Sembrate persone che difficilmente sopravviverebbero più di qualche giorno qui a notturni». «Fece Tom diffidente. non avrebbe raccontato la loro storia. Sì, veniamo da molto lontano. Ti stupiresti nel sapere quanto. Una pausa. Si stavano studiando, come avversari durante una partita a scacchi. E invece cosa ci dici di te? Vivi da sola? Non hai paura dei pericoli della selva? La selva riserva minacce soprattutto a chi non le conosce, rispose scrollando le spalle e distogliendo lo sguardo. I silvani sono divisi in clan, e il mio vive ad ovest di qua. I necromanti individuano troppo facilmente i gruppi composti da più di qualche famiglia, mandano i loro sicari e ci uccidono, per prevenire ogni possibile ribellione. E in qualsiasi caso non c'è mai cibo abbastanza per tutti, per questo io mi sono allontanato. Questa parte dei notturni è sotto il dominio dei necromanti? Chiese Tom. Più ne avessi saputo di quel mondo, e meglio sarebbe stato. Qui siamo in una zona di confine, dove nessuno ha il dominio assoluto. La selva è per metà del regno degli evocatori e per l'altra in quello dei necromanti, rispose Arla, girando la lepre sul fuoco. Ma le loro creature non interessano i confini. Creature come la fatua, intendi? Arla no. La fatua è sotto il controllo di Vama, il necromante, come tutto ciò che ha a che fare con la morte e quello che viene dopo. Un istante di silenzio seguì le sue parole. So che c'è una guerra fra le confraternite. I silvani che vivono di qua del confine non devono combattere per i necromanti? Non siamo abbastanza forti. Un sorriso amaro apparve sulle labbra della donna. Solo dopo morti diventiamo dei buoni guerrieri. È anche per questo che siamo rimasti così pochi. Osservarono a lungo il fuoco in silenzio. La lepre ben presto fu cotta a sufficienza per essere mangiata. Arla la tagliò in pezzi e ne prese uno, porgendo il resto a Tom. Questi tergiversò prima di dare una porzione a Diana, in attesa che la donna ne andasse un po' giù. La ragazza, che continuava a sonnecchiare, ma aveva seguito la conversazione spostando appena lo sguardo dall'uno all'altro, la prese e ne sbocconcellò un po', con poco appetito. Sapeva di carne andata male. «Credo che abbiate bisogno di una guida, sempre che vogliate arrivare via alla fortezza della solitudine», disse Arla, rompendo il silenzio all'improvviso. «Vi accompagnerò fino lì». «Forse abbiamo bisogno di una guida e forse no», gli rispose Tom, diffidente. «Perché tutta questa ansia di aiutarci?» «Siete i miei debitori perché vi ho salvato e mi assicuro che sopravviviate per pagare il vostro debito». «Cosa ti fa pensare che ne saremmo mai in grado?» chiese lui in tono di sfida. «Forse era meglio mettere tutte le carte sul tavolo». «Diana è un simbolo di potere che non si vedeva da secoli». Arla fece un gesto a forma di semicerchio all'altezza del collo. «E forse ho capito chi è il vostro amico prigioniero nella fortezza della solitudine. Se la ragazza sopravvive, meglio essere in credito con lei piuttosto che in debito». Dunque la donna aveva riconosciuto Diana come l'erede della linea di sangue, anche se Tom aveva attentamente evitato di fare anche solo un accenno all'argomento. Da un certo punto di vista poteva essere un vantaggio, se veramente lei si aspettava di ottenere qualcosa in futuro. In ogni caso, le sue parole chiusero la conversazione. Arla si appoggiò con la schiena al tronco e chiuse gli occhi, invitando decisamente Tom e Diana a fare altrettanto. Lui la imitò, sdraiandosi accanto alla ragazza e proteggendola con un braccio. Quella donna non lo convinceva, ma era l'unica speranza che avevano di raggiungere in breve tempo la fortezza della solitudine. Vama il necromante osservava le attività dei suoi adepti dall'alto di una nicchia scavata nel tufo della catacomba principale. I riti propiziatori per il risveglio dei morti erano lunghi e anche il minimo errore poteva costringere chi li compiva a ricominciare dall'inizio. I cadaveri erano accatastati uno a fianco all'altro, il mutilato accanto allo sventrato, l'uomo morto di vecchiaia vicino a quello deceduto per la peste. Un fetore di decomposizione aleggiava sulla scena, ma dopo anni di riti nessuno dei necromanti sembrava farci caso. Uomini coperti di sudici mantelli grigi mormoravano lunghi incantesimi, leggendoli da antichi tomi. Le loro mani si agitavano in gesti contorti, stringendo potenti oggetti necromantici. Zampe di animali sacrificati sull'altare, ventagli cuciti con la pelle di neonati, corone di denti strappate a donne ancora vive. I cadaveri cominciavano a tremare, poi sussultavano accompagnando i bruschi movimenti degli adepti e a quel punto dei nervoluti che aiutanti li afferravano per bloccarli a terra. I volti tumefatti dalla morte si contorcevano in urla silenziose, rese vane dalle corde vocali ormai decomposte. I necromanti allora incidevano con il coltello rituale il simbolo della sottomissione sulla fronte dei corpi cui veniva conferita nuova linfa. I movimenti inconsulti si bloccavano all'improvviso. Barcollando, i risorti raggiungevano le schiere dei loro simili nelle catacombe inferiori, dove venivano armati. Era errato definire una nuova vita, e Vama rideva al solo pensiero che potesse essere considerato tale. Ai vivi era consentito avere l'intelligenza, la pietà, l'onore. I soldati dei suoi eserciti non possedevano nessuna di quelle qualità, ma ne avevano di ben più preziose. Erano spietati, crudeli, crudeli. Uccidevano per bramosia, per ferocia, per odio. Era da tempo che gli eserciti delle confraternite non si scontravano in campo aperto, ma le sue spie gli avevano riportato movimenti sospetti sui confini orientali. Demoni alati compivano voli di ricognizione troppo frequenti e c'erano state varie scaramucce tra le sue pattuglie e quelle di Shaltur. L'orbo preparava senz'altro qualcosa, ma li avrebbe trovati pronti. Tornò a studiare un voluminoso tomo posato su un tavolo di pietra alle sue spalle, appoggiando lo scarso peso del suo corpo su un bastone di legno scuro interziato da disegni mistici. La torcia che baluginava appena nell'oscurità della stanza scolpì ombre aguzze sul suo viso emaciato. La sua testa era piegata in maniera bizzarra sul collo a causa di una gobba prominente che gli distorceva la schiena. Si immerse per un lungo periodo nella lettura. Decifrava gli antichi simboli seguendo un'intricata forma con l'unghia sudicia dell'indice adunco. La sua attenzione fu infine distolta da una vibrazione nell'angolo più scuro della stanza. Si girò, escluso dall'oscurità. Poi un ghigno si fece largo sul suo viso purifame. «Rordu, mio fidato», disse con la voce cupa come le cripte che spesso profanava. «Quali notizie mi portano le ombre dal mondo esterno?» Una figura sembrò materializzarsi dal nulla, emergendo dal buio dell'angolo. Sembrava un uomo di statura piccola e dalla pelle grigia come la cenere, gli occhi neri apparentemente senza pupille. Si muoveva con la fluidità di un serpente e nel farlo non produceva alcun rumore. Vama lo osservò con l'orgoglio di un padre. Di tutti gli esseri che aveva richiamato dall'oltremondo, Rordu era quello di cui andava più orgoglioso. Lui e le altre ombre erano un rano connubio di qualità speciale. Immortali, perché già morti e risorti, erano in grado di combattere con l'abilità dei guerrieri che erano stati, ma nello stesso tempo potevano diventare incorporei e svanire come fantasmi. Se solo avesse avuto un esercito di ombre, Notturnia sarebbe già stata ai suoi piedi. «Vigiliamo sempre sul tuo regno, signore dei morti», rispose l'essere di nome Rordu con una voce sottile come uno stiletto. «Gli eserciti di Shaltul si preparano, credo che siano in procinto di sferrare un attacco in grande stile. La cittadella brulica di evocatori impegnati per richiamare demoni dagli abissi». Il volto di Vama si distorse in un'espressione di odio puro, scoprendo i radi denti marci. Il negromante si avvicinò con il suo passo incerto a Rordu. «Anche noi ci stiamo preparando, e questa volta li spazzeremo via da Notturnia, una volta per tutte», indicò le cripte che giacevano sotto di loro e dalle quali proveniva il fetore dei cadaveri che venivano risvegliati. «E dal sud ci sono movimenti?» chiese dopo qualche istante. «Le paludi sembrano in letargo», rispose Rordu, scuotendo il capo senza mutare la sua espressione. «I maghinieri dormono il loro sonno mistico e di questi tempi non si interessano alla guerra del buio. Quando mi occuperò di loro, rimpiangeranno questo loro disinteresse», ringhiò Vama, accompagnando le parole con un gesto della mano d'unca. «Mi hai servito bene come al solito, Rordu. Puoi tornare ai tuoi compiti».